ha cercato di capire qual era l'essenza, la radice del gioco del rugby. Abbiamo capito che il gioco del rugby, che appunto nasce nel college di rugby condotto da Thomas Arnold all'inizio dell'Ottocento, nasce per motivi educativi, cioè attraverso quel gioco si voleva contribuire all'educazione dei giovani anglosassoni di allora. Noi abbiamo cercato di rilavorare il gioco adattandolo ai nostri tempi e soprattutto adattandolo secondo tre linee guida fondamentali. La prima, che il nuovo modo di giocare che noi stavamo costruendo fosse praticabile da qualsiasi bambino, quindi indipendentemente dalle sue dalla sua cultura, dalle sue capacità linguistiche e soprattutto dalle sue capacità motorie e cognitive, poi che il gioco fosse praticabile in qualsiasi luogo, visto soprattutto le caratteristiche delle scuole italiane, che non sono scuole attrezzate per fare sport. E il terzo elemento che ci ha guidato nel costruire il nostro metodo è stato che fosse utilizzabile da coloro che lavorano nelle scuole, che sono nelle scuole medie gli insegnanti di educazione fisica, che sicuramente hanno una cultura adeguata per usare un gioco sportivo a fini educativi, ma soprattutto sono maestre di scuole elementari, che invece non hanno avuto una formazione adeguata per usare lo sport come strumento educativo, ma hanno invece avuto una formazione adeguata da un punto di vista pedagogico. Quindi noi abbiamo pensato che il metodo che andavamo a costruire doveva essere utilizzabile, comprensibile da chi aveva competenze pedagogiche e non necessariamente sportive o ancor più reglistiche. Quindi ecco, questo è importante dirlo, non serve necessariamente il campo da rugby con i pali e tutto quanto e tutta l'attrezzatura in ordine per giocare al rugby proposto da Scuola Rugby. Basta anche la classica palestrina che spesso hanno a disposizione le scuole elementari italiane, ai noi, per potersi divertire e avviare un progetto educativo. Sì, esatto. Innanzitutto il rugby che noi proponiamo a scuola abbiamo scelto di chiamarlo nel modo più diffuso con cui si chiama il rugby dei bambini, quindi assolutamente inflazionato, ma che ci sembrava anche il più azzeccato dal punto di vista del nome. Noi proponiamo il rugby educativo. Piccolo inciso, in tutta Italia si chiama rugby educativo qualsiasi forma di gioco in cui i bambini giocano a rugby. Il nostro però, nonostante abbia un nome comune, è molto particolare. Sì, è vero, noi abbiamo pensato di portare il rugby anche nella palestrina, abbiamo casi estremi, palestrine del 400, cioè stanze del 400 in edifici molto antichi con delle colonne in mezzo, riusciamo a lavorare anche lì. In buona sostanza noi abbiamo formato uno staff di insegnanti, colleghi degli insegnanti che operano nelle scuole, che vanno nelle scuole e per 10 ore di lezione curricolare dimostrano il metodo agli insegnanti responsabili delle classi. Terminato questo corso di 10 ore con i bambini della classe dell'insegnante, si propone agli insegnanti stessi delle scuole in cui siamo intervenuti di frequentare un corso di formazione che gli consente di diventare autonomi nell'uso del metodo e quindi i diretti protagonisti della pratica del gioco a scuola. Penso che gli episodi più divertenti siano legati proprio non tanto agli alunni, che sicuramente appena vedono il pallone, ovale o tondo che sia, se la divertono un mondo, ma proprio rispetto agli insegnanti, no? Qualcuno sarà rimasto un po' a bocca aperta, qualcuno sconcertato, qualche episodio simpatico. Sì, uno fra tutti, insegnante di scuola elementare del comune di Segrate, noi operiamo nella provincia di Milano adesso, si è talmente appassionata che quest'anno è andata ad allenarsi con la squadra femminile nonostante i suoi 40 anni, perché gli è piaciuto talmente tanto veder giocare i suoi bambini, far giocare i suoi bambini, che ha voluto provare a giocare anche lei. Ah, quindi insomma fate anche proseliti tra gli insegnanti, anche se poi ricordiamolo, Scuola Rugby non è un'associazione sportiva o un club o una società, quindi il vostro obiettivo non è quello di portare, che ne so, i giovanissimi talenti che scoprite nelle scuole poi sul campo del vostro club. No, noi hai ragione, non siamo una società sportiva, noi non reclutiamo bambini per le nostre squadre, molto semplicemente perché non abbiamo squadre di rugby che praticano il gioco sui campi da rugby. Il fine di Scuola Rugby è quello di far conoscere il rugby nella sua forma di strumento didattico agli insegnanti e di far diventare il rugby uno strumento didattico nel curriculum formativo dei ragazzi, così come lo è durante le ore di educazione motoria o di educazione fisica, la pallacanestro, la pallavolo, l'atletica leggera o altre discipline che normalmente vengono praticate durante l'orario scolastico. Abbiamo focalizzato però il metodo sulla potenzialità educativa dal punto di vista proprio delle competenze sociali, che in brevissima sintesi sono quattro: sono la responsabilità individuale, il rispetto dell'altro, la socialità, nel senso della capacità di condividere risorse e obiettivi con gli altri, e la solidarietà. Noi non abbiamo inventato nulla, siamo andati a recuperare le radici che hanno prodotto il gioco nel college di rugby grazie alle idee e al lavoro di altri che ci hanno preceduto, soprattutto Thomas Arnold, che era il rettore di rugby. Questo è il nostro obiettivo. Insomma, era tutto già scritto fin dalle origini, bastava solo scoprirlo o riscoprirlo. Esatto, sì. In realtà nel resto del mondo, soprattutto nel mondo anglosassone e francofono, lo sapevano già, non dovevamo dirglielo noi. Diciamo che in Italia non avevamo colto ancora nella sua essenza queste possibilità, anche se comunque queste cose sono in qualche maniera già comprese nella cultura di chi vive nel mondo del rugby in Italia, ma non nell'Italia a livello sociale. Ecco perché il rugby è rimasto ancora una nicchia e non si è diffuso nel nostro paese. E beh, insomma, mi sembra importante che ci sia in questo caso Scuola Rugby, che ci ricorda semplicemente che questo sport è nato per educare le persone ed educare i giovani alla socialità. Poi le mischie, le mete, il terzo tempo ben vengano, ma non erano quelli l'obiettivo principale. E grazie allora anche a Enzo Belluardo per avercelo ricordato. Beh, però adesso l'augurio per il prossimo anno è quello proprio di andare in meta, eh? Grazie mille anche a voi. Anche per la puntata odierna di A Bordo Campo è tutto. Un grazie a Mauro De Angeli in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail abordocampo@radio24.it, dialogare con noi sempre attraverso il web sul nostro blog e riascoltarci dal nostro sito www.radio24.it. L'appuntamento, come d'abitudine, per domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.